Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continua questa sera lo speciale di Smart City dedicato alle Smart Road, le strade intelligenti. Nelle ultime due puntate abbiamo parlato di come le autostrade, anche in Italia, si stiano attrezzando con una dotazione digitale che ha in prima istanza lo scopo di migliorare già oggi, diciamo così, la sicurezza e l'efficacia del sistema della viabilità, ma soprattutto in prospettiva ha lo scopo di offrire un contesto adeguato alla diffusione, ormai imminente peraltro, delle auto a guida autonoma. Tutto questo in autostrada e in città ne parliamo con Domenico Sorrenti, che è docente di informatica e responsabile di IraLab, laboratorio di informatica e robotica per l'automazione dell'Università di Milano Bicocca. Buonasera Sorrenti, benvenuto. Salve, buonasera. Senta, allora, quest'anno stanno partendo un sacco di sperimentazioni un po' dappertutto in giro per il mondo di queste self-driving car che vengono messe alla prova su un campo reale in città con utenti veri. A Göteborg, per esempio, quest'anno verranno messe su alcune strade della città, su un circuito limitato, ma 100 auto a guida autonoma a disposizione dei cittadini comuni della città. Ecco, per poter fare questo tipo di sperimentazioni, le strade devono avere una dotazione specifica tecnologica? Ma diciamo che come minimo ci vorrebbe una buona connettività, però di per sé il veicolo a guida autonoma in quanto tale e dovrebbe essere completamente autonomo, ecco. Però ci sono, mi sembra, più scuole di pensiero da questo punto di vista, no? Beh, chiaramente più l'ambiente è in grado di aiutare il veicolo a osservarsi intorno, anche in zone in cui il veicolo non può in soggettiva percepire l'ambiente, e chiaramente si potranno avere prestazioni del sistema dei veicoli complessivo più elevate. Più elevato. Facciamo per esempio evitare di rallentare a un incrocio per vedere se arriva qualcuno, perché il veicolo sa già che non arriva nessuno. Ecco, perché a livello di incrocio c'è un qualche tipo di tecnologia che guarda in tutte le direzioni e dice ok, la strada è completamente libera, per cui tutti quelli che stanno arrivando da lì possono passare. Sì, esattamente. Ecco. Diciamo che l'importante è che ci sia sempre una completa situational awareness da parte del veicolo. Ecco, che cosa vuol dire situational awareness? Consapevolezza di quello che gli sta intorno, diciamo. Sì, così. Esatto, noi robotici lo chiamiamo modello del mondo, però insomma, se il veicolo non vede in certe zone dovrà per forza rallentare in maniera da poterle osservare. Se invece qualcuno guarda al suo posto, che siano altri veicoli in grado di comunicare o che siano infrastruttura della strada in grado di osservare, ma l'importante è che il veicolo abbia il modello del mondo riempito delle informazioni di tutte le zone. Quindi diciamo che, a parte strettamente la connettività, quello che potrebbe fare questa infrastruttura stradale è migliorare così il dialogo fra i vari veicoli e complessivamente migliorare, quindi la visione del mondo, completarla nelle parti che in soggettiva i veicoli non vedono. Perfetto, non osservano. Con dei benefici che si possono misurare in termini di snellimento ulteriore del traffico, sicurezza, risparmio energetico. Sorrenti, torniamo a parlare di sperimentazioni. Abbiamo detto che sono molte quelle che partiranno quest'anno in giro per il mondo e in Italia, a Milano, dove operate voi? Ma io qua parlo per quanto riguarda direttamente il mio progetto, la mia attività. Noi stiamo lavorando per andare in strada, ma nella modalità con supervisore, non certo con la macchina lasciata sguarnita, diciamo, completamente. Ma questo credo dappertutto ancora adesso è così. Sicuramente in Svizzera, Francia, Olanda c'è sempre un supervisore negli esperimenti in corso, diciamo questi recenti. Conosco bene la situazione, quella di Göteborg che nominava all'inizio, però diciamo che la nostra prospettiva è quella della supervisione. D'accordo. Senta, ci sarà un periodo probabilmente non brevissimo in cui dovranno coesistere dei veicoli a guida autonoma, quindi totalmente in grado eventualmente di circolare in autonomia, e veicoli assolutamente tradizionali. Come si gestisce una situazione di questo genere? Forse qui l'infrastruttura per la viabilità potrebbe avere un ruolo importante. Sì, come dicevamo prima, siccome il punto critico è questa capacità di avere un buon modello del mondo, se questi altri veicoli, quelli che oggi sono normali, non sono percepiti direttamente, o c'è un'infrastruttura che li rileva, o loro dichiarano, però devono appunto poter dichiarare dove si trovano, il che significa che potrebbe esserci in alternativa all'infrastruttura stradale, diciamo. Sì. potrebbe esserci una specie di scatola nera a bordo del veicolo che fa una parte delle funzioni che vengono fatte sulle macchine a guida autonoma, quella di costruzione del modello dell'ambiente. Quindi il veicolo normale verrà dotato di questa scatola nera, che avrà, che ne so, dei sensori che sono in grado di fargli capire con la precisione dovuta dove si trova, e sarà comunque in grado di parlare con l'infrastruttura e di comunicare a tutto il resto del mondo della viabilità la propria presenza. Guardate che io non sono un'auto a guida autonoma, sono una di quelle vecchie auto, mi trovo qui in questo momento, sto andando a questa velocità. Esatto. Attenti. Esatto, perché essendo di tipo normale saprò anche meno facilmente coordinarmi col resto del traffico. Certo, dovranno essere gli altri in qualche modo che si adattano. Ha detto bene. Va bene, grazie, grazie Domenico Sorrenti. Va bene, arrivederci, salve. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata. Scoprite come guidare il tempo verso il futuro su audinnovative.it. Future Needs Stories.